GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Quattro rinvii a giudizio per il crollo della piscina terapeutica di Trieste del luglio 2019. Li ha decisi il giudice per l'udienza preliminare, accogliendo la richiesta della procura. L'accusa è di cooperazione in disastro colposo. 500 interventi in 4 giorni di bora forte in regione, super lavoro per i vigili del fuoco, soprattutto a Trieste, con danni e strade interrotte per la caduta di alberi. Le elezioni di aprile. Inizia la sfilata dei big a sostegno dei candidati alle regionali e comunali. Estratto l'ordine di apparizione dei candidati governatore sulle schede elettorali. Sarà Tripoli, Maran, Fedriga e Moretuzzo. Nuova sentenza risarcitoria per un lavoratore portuale esposto all'amianto. Il porto di Trieste dovrà pagare 500.000 di euro. E secondo gli ultimi studi, nel Monfalconese le malattie legate all'amianto non hanno ancora raggiunto il picco di casi previsto per il 2030. Fatturati in crescita ma senza un aumento dell'occupazione. In Friuli gli artigiani hanno difficoltà ad assumere personale. Via libera la ristrutturazione della terrazza a mare di Lignano, 13 milioni di euro per i lavori che inizieranno in autunno e termineranno nel 2025. A Trieste ci sono più cani e gatti domestici che bambini e sono aperti i termini per richiedere i contributi per le spese veterinarie, misura destinata agli over 65. Pallanuoto europea, Trieste pareggia la semifinale di andata di Eurocup 9-9 contro Savona alla Bianchi, l'accesso alla finalissima in palio tra 20 giorni nella gara di ritorno. Un Casanova non solo libertino, arriva questa sera a Trieste l'opera pop dedicata all'avventuriero veneziano con le musiche del bassista dei Pooh, Red Canzian. Lo abbiamo intervistato. Sono le 7.19 di giovedì 2 marzo, buongiorno da Daniele Lettigi e Andrea Covri in studio per questa prima edizione del giornale radio regionale. Diamo un'occhiata al tempo, il cielo è da nuvoloso a coperto sulla regione, queste le temperature registrate alle 6, a Trieste 7 gradi, a Udine 9,5, a Gorizia 9, a Pordenone 5, Tolmezzo 4,5, Piancavallo 5 decimi di grado, Forni di Sopra 0, Tarvisio meno 5 decimi di grado, Sappada meno 1, Monte Lussari meno 5,5 gradi, Monte Zoncolan meno 4, a grado 8 gradi. Queste invece le previsioni. Cielo in prevalenza nuvoloso con la possibilità di qualche schiarita, specie verso sera. Sarà possibile ancora qualche debole precipitazione sparsa, più probabile sui monti, con neve sui 1000 metri circa fino a fondovalle sul Tarvisiano. Sulla costa soffierà bora sostenuta al mattino, moderata nel pomeriggio. Bora moderata anche in pianura. E sono circa 500 gli interventi di soccorso dovuti al forte vento portati a termine dai vigili del fuoco in regione dalla mezzanotte di domenica alla serata di ieri. Almeno 170 le chiamate arrivate alle sale operative per i danni causati dal vento. A Trieste, dove continua a soffiare la bora, anche se meno forte rispetto a ieri, nelle ultime 24 ore i vigili del fuoco hanno portato a termine 80 di interventi di soccorso, una decina dei quali durante la notte. Alcuni interventi sono stati sospesi per il sopraggiungere del buio e verranno ripresi oggi. Ieri, sempre a Trieste, hanno operato 6 squadre supportate da un'autoscala ed è stato richiamato anche personale libero dal servizio. A Gorizia, i vigili del fuoco sono stati impegnati con 2 squadre per 20 interventi, mentre a Udine hanno operato 6 squadre supportate da 2 autoscale, una delle quali fatta arrivare dal comando di Pordenone. 60 gli interventi dovuti al vento portati a termine. Un incendio è divampato ieri pomeriggio all'interno del parco intercomunale del fiume Corno, nel comune di Gonars. Le fiamme si sono sviluppate in un prato e sono poi arrivate alla zona boschiva, interessando un'area di circa 8 ettari. Il fuoco si è diffuso molto rapidamente a causa del vento che soffiava a circa 80 km orari. Anche per questo le operazioni di spegnimento, condotte dai vigili del fuoco di Udine e di Cervignano, a cui si sono aggiunti i volontari della protezione civile di Gonars e di Palmanova e gli uomini del corpo forestale di Gemona, sono risultate lunghe e difficoltose. Il fuoco è stato domato verso le 18 e sono in corso accertamenti per stabilirne le cause. Non si esclude l'origine dolosa. La cronaca giudiziaria: accusati di cooperazione in disastro colposo sono stati rinviati a giudizio i 4 imputati per il crollo della copertura del tetto della piscina acquamarina di Trieste avvenuto nel luglio del 2019. La prima udienza del processo è stata fissata per il 24 maggio. Alla fine si andrà a giudizio. Il giudice per le indagini preliminari, Luigi Dainotti, ha disposto la misura per i 4 presunti responsabili del crollo della copertura del tetto della piscina acquamarina di Trieste avvenuto il 29 luglio 2019, quando fortunatamente la struttura era chiusa e quindi senza causare feriti. Una tragedia evitata per puro caso. Il GUP ha invece accolto la richiesta del PM Pietro Montrone, respingendo la richiesta di un'ulteriore perizia avanzata da uno degli indagati. A processo andranno l'ingegner Fausto Benussi, progettista esecutivo amministrativo e direttore dei lavori per la realizzazione delle strutture della piscina, Pietro Zara, titolare dell'impresa incaricata della manutenzione, e i due addetti che stavano eseguendo i lavori quando la struttura era ceduta, Giuseppe Pugliero e Octavian Ignat. Presenti in aula anche le parti civili, cioè il Comune di Trieste, la titolare di un centro estetico che si trovava all'interno della piscina. La prima udienza del processo si terrà il 24 maggio. L'ipotesi di reato è disastro colposo. Secondo l'articolo 449 del Codice Penale, gli imputati rischiano fino a 5 anni. Intanto, nei giorni scorsi, il Comune ha ottenuto le ultime autorizzazioni per la demolizione della struttura, di cui era stato disposto il dissequestro a dicembre 2021, formalmente avvenuto la primavera scorsa. È pronto da mesi il progetto esecutivo, ma mancavano ancora gli ultimi passaggi burocratici, ovvero l'ok da parte di Ministero, Demanio e Autorità Portuale. Si conta di cominciare i lavori in un paio di mesi per ultimarli entro l'estate. 5 invece milioni complessivamente messi a disposizione per la riqualificazione dell'area. Dovrebbe sorgerci il Parco del Mare, anche se diversi attori, in primis la Regione, hanno mostrato dubbi per gli elevati costi di costruzione. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. C'è anche il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, l'udinese Silvio Brusaferro, tra gli indagati della Procura di Bergamo sulla gestione del Covid nei primi mesi della pandemia. Ipotizzati i reati di epidemia colposa aggravata, omicidio colposo plurimo e rifiuto di atti d'ufficio per 19 tra tecnici e politici, tra cui l'allora premier Giuseppe Conte, l'ex ministro della Salute Roberto Speranza e il presidente della Lombardia Attilio Fontana. Le indagini sono state avviate nell'aprile 2020, ha sottolineato in una nota il procuratore di Bergamo Antonio Chiappani, e sono state articolate, complesse e basate sull'analisi di una rilevante mole di documenti sequestrati, su migliaia di mail e di chat telefoniche in uso agli indagati, oltre che sull'audizione di centinaia di testimoni. Le elezioni di aprile, partono gli appuntamenti con i big nazionali che annunciano la loro presenza a sostegno dei rispettivi candidati, e per le regionali è stato sorteggiato l'ordine di apparizione sulla scheda elettorale dei candidati presidente e delle liste a sostegno. Entra nel vivo la campagna elettorale a un mese dalle elezioni. Cominciano ad arrivare leader nazionali che vedono il Friuli Venezia Giulia come un test, per quanto piccolo, per confermare o cambiare gli equilibri politici. È la prima regione al voto dopo Lombardia e Lazio e, esclusi Molise e Trentino, l'ultima alle urne prima delle europee del prossimo anno. Venerdì sono attesi a Udine, in due appuntamenti distinti, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e il fondatore di Azione Carlo Calenda. I partiti stanno definendo in questi giorni le agende, ma saranno diversi segretari e ministri che faranno campagna elettorale sul territorio. Il numero uno della Lega, Matteo Salvini, sosterrà personalmente Massimiliano Fedriga, ma verranno per lui anche diversi presidenti di regione a lui vicini. Presumibile, ma ancora da definire, la presenza di Elly Schlein, anche perché a Trieste ha ottenuto il miglior risultato nazionale alle primarie, che l'hanno incoronata capo del Partito Democratico. Fratelli d'Italia sogna la presenza della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e intanto ha programmato la visita di 4 ministri, tra cui quello della Giustizia, Carlo Nordio. Intanto è stato sorteggiato l'ordine di candidati presidenti e liste sulla scheda elettorale. Giorgia Tripoli, di Insieme Liberi, in prima posizione, a seguire Alessandro Maran del Terzo Polo, poi Massimiliano Fedriga del centrodestra e Massimo Morituzzo del centrosinistra. In ogni circoscrizione ci sarà una diversa disposizione delle liste sulla base del sorteggio stesso. Estrazione anche per le comunali di Udine, dove sono state ammesse tutte le liste. Al primo posto Pietro Fontanini, seguito da Alberto Felice De Toni, centrodestra e centrosinistra rispettivamente. Poi i due civici, Stefano Salmè e Ivano Marchiol. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Oggi alle 11 alla cantina Cattulio di Aquileia si terrà la presentazione ufficiale della coalizione a sostegno del candidato del centrosinistra alla presidenza della regione, Massimo Morituzzo, che interverrà assieme alle candidate e ai candidati delle liste. Abbiamo scelto Aquileia, ha spiegato Morituzzo, perché è luogo emblema di una terra di frontiera che è da sempre punto d'incontro di popoli, lingue e culture diverse. Eppure questo luogo, sito UNESCO per il suo patrimonio archeologico dal valore eccezionale sul piano storico e scientifico, è a grave rischio per gli effetti della crisi climatica che ancora oggi alcuni minimizzano o addirittura negano. Partiamo da qui perché siamo convinti che possiamo costruire il nostro futuro se sapremo cercarlo laddove è sempre stato, ha concluso Morituzzo, nella nostra stessa terra, mettendoci in gioco per difendere i beni comuni. Un altro ex operaio del porto di Trieste sarà risarcito dall'autorità portuale per essersi ammalato gravemente a causa dell'amianto respirato negli anni. La sentenza del Tribunale del Lavoro di Trieste arriva a distanza di un mese dall'ultima sentenza analoga. Questa volta l'autorità di sistema portuale dovrà pagare più di 500.000 euro di danni a un 86enne triestino malato di tumore polmonare e rappresentato dall'avvocato Fulvio Vida. Per decenni ha respirato le fibre di amianto caricando e scaricando i sacchi come facchino della compagnia portuale. La sentenza, emanata venerdì scorso, va in una direzione nuova rispetto ai casi analoghi finora in giudizio. Il giudice aveva riconosciuto finora la inguaribilità della malattia e aveva concesso l'invalidità temporanea pari a 400 euro al giorno di risarcimento per i pochi giorni che restavano di vita alla vittima in base alla prognosi. In questo caso invece il giudice ha riconosciuto l'invalidità permanente perché il cancro è sì inguaribile ma si è cristallizzato, cioè è stazionario. E nuove ricerche a carattere genetico sulle malattie da asbesto sono state presentate a Monfalcone dalla Lega Italiana contro i tumori. L'obiettivo è soprattutto quello di trovare cure preventive. Individuare i soggetti più a rischio, ma anche cercare soluzioni allo smaltimento dell'amianto. A Monfalcone, epicentro di un territorio che continua a pagare il prezzo più alto in termini di vittime d'amianto, la presentazione della ricerca medico-scientifica che attraverso lo studio del codice genetico punta a riconoscere le varianti di DNA che caratterizzano lo sviluppo del mesotelioma. Si vuole capire perché su un centinaio di esposti, una media tra i 4 e i 7, contraggono neoplasie asbesto correlate. È stato sottolineato che non esiste una soglia minima di esposizione. L'obiettivo della ricerca genomica è inoltre quello di trovare cure preventive. Fondamentale anche trovare delle alternative allo smaltimento in discarica dell'amianto. Violetta Borelli, Dipartimento Scienza della Vita, Università di Trieste. Diverse sono state le metodologie proposte per l'inertizzazione dell'amianto, quella termica, ma recentemente anche quella chimica. Vorremmo andare a valutare le caratteristiche di tossicità, genotossicità dei materiali inertizzati, cioè se hanno realmente perso il loro potere cancerogeno. Il sito di Porcia rimane l'unica discarica di amianto in tutto il territorio regionale. Michele Luise, presidente l'ILT Isontina. La ricerca che sta facendo l'università, grazie anche ai nostri fondi, va proprio in quella direzione. Cercare di verificare se questa azione di inertizzazione dà effettivamente il risultato auspicato, che la molecola non possa più far danni. Monfalcone, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Un ragazzo di 23 anni di origini albanesi, Self Kollamkaj, e un suo collega sempre albanese, Emirion Kendra, di 45 anni, sono stati soccorsi ieri pomeriggio per le lesioni riportate a seguito di un incidente sul lavoro che si è verificato negli spazi di un'azienda di Fagagna, la AFG Packaging. I due stavano pulendo dei laminatoi con un solvente chimico quando si è liberata una sostanza tossica. Lamkaj è rimasto gravemente ustionato e dopo essere stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per una prima valutazione è stato trasferito al reparto Grandi Ustionati di Padova. Kendra è stato invece trasportato all'ospedale di Udine in codice giallo. I due operai lavorano entrambi per la DL Services, un'impresa esterna di Sequals specializzata nella cura e nella manutenzione aziendale. Nonostante il caro energia, cresce il fatturato per le imprese artigiane, ma cala l'occupazione e permane la difficoltà di reperire personale specializzato. Jobless growth è il termine tecnico, ovviamente di gran moda in inglese, che indica la crescita senza occupazione. E quanto sta accadendo alle imprese artigiane della provincia di Udine, che a fronte di una crescita nel 2022 rispetto all'anno precedente del 7,3%, fanno registrare invece cali importanti dell'occupazione dipendente. Il dato emerge dalla 34esima indagine congiunturale di Confartigianato Imprese Udine, report risultato dalle interviste effettuate tra gennaio e febbraio in 609 imprese della provincia friulana. La crescita è rilevata in tutti e tre i macrosettori, maggiore nelle costruzioni, più 8,8%, minore nelle manifatture, più 6,2%. Ciò nonostante l'occupazione dipendente cala in due settori su tre, manifatture e servizi, con l'eccezione del comparto costruzioni. La diminuzione di dipendenti, secondo Nicola Serio, direttore dell'ufficio studi di Confartigianato Udine, è correlata alla difficoltà a trovare personale da assumere. Un'indagine nazionale conferma che il Friuli Venezia Giulia sia al secondo posto in Italia per difficoltà delle imprese artigiane nel trovare personale, quasi 10 punti sopra il dato delle imprese non artigiane. Un problema universale alla quasi totalità delle imprese artigiane poi è quello della crescita dei prezzi energetici e delle forniture, da affiancare poi alla mancanza di capitali per investimenti, legata anche alla difficoltà di accesso al credito. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Poste Italiane cerca portalettere in tutto il Friuli Venezia Giulia da inserire con contratto a tempo determinato. Per candidarsi occorre inserire entro il 5 marzo il proprio curriculum vitae sulla pagina web del sito istituzionale di Poste nella sezione Carriere dedicata a posizioni aperte, in cui sono indicati i requisiti per poter partecipare alla selezione. Sarà pronta nel 2025 la nuova terrazza a mare di Lignano. Il progetto ha ricevuto il via libera e la struttura verrà ampliata e potrà tornare a ospitare eventi musicali, prevista anche una piscina a sfioro. Servivano 13 pareri positivi per approvare il progetto definitivo che darà nuova vita alla terrazza a mare. Soprintendenza, Capitaneria di Porto, ARPA, Azienda Sanitaria, Servizio Idrico, Geologico, Biodiversità. Si tratta infatti di un bene demaniale in fase di passaggio di proprietà dallo Stato alla Regione e per di più tra le onde. Alla fine il nulla osta, in conferenza dei servizi, è arrivato da tutti quanti. Con 13 milioni, 5 dei quali stanziati dalla Regione e 8 in arrivo dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il luogo simbolo di Lignano Sabbia d'Oro sarà ristrutturato. Cristina Driusso, capo settore urbanistica e edilizia privata di Lignano Sabbia d'Oro. Oggi Terrazza Mare è in uno stato di degrado importante, ha perso un po' delle sue funzioni, l'intervento punta a riqualificare sia dal punto di vista energetico, strutturale e infrastrutturale in genere l'edificio e anche di dotarlo di spazi all'aperto. Potrà tornare a ospitare eventi musicali e concerti la cinquantenaria struttura. Il divieto di ballo era scattato una ventina di anni fa per mancanza di una seconda via di fuga. Verrà creata con un aumento degli spazi calpestabili. Ampliati i servizi di ristorazione e sala convegni, ci sarà una nuova piscina a ridosso del mare. Ideazione e realizzazione affidati a un raggruppamento di progettisti e a uno dei più celebri architetti portoghesi, Carrillo da Grassa. Prossimo passo dell'iter, avviato nel 2021, sarà il progetto esecutivo. Inizio dei lavori in autunno, termine nel 2025. La sfida sarà quella di trovare un equilibrio tra cantiere e turismo. È evidente che tenere aperta un cantiere con una stagione in corso in un punto nevralgico della città, per quanto possa essere anche fermo il cantiere durante il periodo estivo, rappresenta sicuramente una criticità, e quindi lavorare nelle stagioni invernali è l'altro tema importante. Lignano Sabbia d'Oro, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. La finanziaria regionale Friulia è entrata nel capitale della società STI Corporate, gruppo friulano dell'ingegneria e della consulenza tecnica, per supportare un piano di sviluppo internazionale, sostenibile e digitale. L'operazione, che prevede un investimento complessivo di 1,5 milioni di euro, è stata presentata a Udine. Nei prossimi 3 anni il business plan prevede investimenti per 2,75 milioni e 200 nuove assunzioni, di cui 110 solo in Italia. Le valli dell'idrogeno europee muovono ufficialmente i loro primi passi. La Commissione europea ha firmato ieri, insieme a oltre 300 rappresentanti dell'industria del settore, alla comunità scientifica e alle regioni europee, una dichiarazione congiunta che evidenzia il ruolo cruciale degli investimenti, della ricerca e dell'innovazione nell'idrogeno rinnovabile per la svolta verde. Tra i primi 34 progetti c'è anche la valle dell'idrogeno del Nord Adriatico, sostenuta dai governi di Croazia e Slovenia e dalle autorità locali del Friuli Venezia Giulia. Per il loro finanziamento, Bruxelles ha assegnato fondi extra per 200 milioni di euro. Ed ora andiamo a Trieste, dove è possibile presentare la richiesta di un contributo di sostegno per le spese mediche, farmaceutiche e veterinarie per cani e gatti. È una misura destinata agli over 65 con un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Trieste è la prima città in regione a rimborsare le spese veterinarie, attingendo ai fondi regionali stanziati lo scorso ottobre. D'altronde, a Trieste abitano molti più cani e gatti che bambini, 7.000 in più, solo considerando quelli regolarmente censiti. Queste le cifre: 28.400 animali di compagnia e 21.500 bambini da 0 a 14 anni. Tornando ai rimborsi, può fare domanda chi ha più di 65 anni e un ISEE pari o inferiore superiore a 15.000 euro. I cani o i gatti devono avere il microchip da prima del 2022. Sono rimborsate al 70% le visite specialistiche, gli interventi di chirurgia e gli esami in laboratorio. I farmaci invece sono rimborsati al 100%. Il bando fissa una soglia minima di spesa di 50 euro e una massima di 300 per ciascuna fattura. Per fare domanda bisogna scaricare il modulo dal sito del Comune di Trieste. Lo si trova scrivendo spese veterinarie nella barra di ricerca. Dopo averlo compilato va inviato con la documentazione via posta elettronica certificata all'indirizzo comune.trieste@certgov.fvg.it. I residenti nei comuni della provincia di Trieste la invieranno invece a comune.muggia@certgov.fvg.it. Si può anche ritirare il modulo direttamente all'URP dei comuni o al Dipartimento Servizi e Politiche Sociali in via Mazzini e consegnarlo a mano all'ufficio accettazione atti di Trieste o negli uffici protocollo di Muggia, Eduino, Aurisina. C'è tempo fino al 30 giugno, ma la graduatoria degli aventi diritto va in ordine cronologico di presentazione delle domande. Se i contributi erogati si riveleranno insufficienti, il Comune farà un'ulteriore raccolta di domande entro fine anno. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Gli spettacoli. Il chitarrista dei Genesis, Steve Hackett, terrà un concerto il 13 luglio a Palmanova, in Piazza Grande. L'appuntamento fa parte delle 6 tappe italiane della nuova tournée di Hackett, che segna il 50° anniversario dell'album Foxtrot del 1972, che mise i Genesis al centro della scena rock britannica. 7.39, lo sport, pallanuoto, Trieste lotta e rimanda la gara di ritorno al verdetto per l'accesso alla finale di Eurocup. Ieri alla Bianchi la pallanuoto Trieste ha pareggiato per 9-9 contro la Rari Nantes Savona in una partita entusiasmante giocata davanti a 800 spettatori. Un pareggio che, considerato l'andamento della gara, sta stretto ai triestini, che si sono trovati anche sul +2 nel quarto periodo, per poi ritrovarsi con l'uomo in meno per 4 minuti a causa di un'espulsione che ha reso più complicato il finale di partita. Tutto si deciderà dunque nella gara di ritorno, in programma mercoledì 22 marzo a Savona. Sabato invece torna al campionato di Serie A1 maschile, la pallanuoto Trieste sarà impegnata a Catania contro l'Ortigia Siracusa, terza in classifica. Apriamo la nostra rassegna stampa partendo dal Piccolo di Trieste, che apre la prima pagina con la notizia del processo per la piscina. Crollo dell'acqua marina, 4 imputati, ipotesi di reato, cooperazione in disastro colposo. Ci sono anche 2 foto che richiamano altri 2 temi. Il primo, quello dei danni della bora, con il titolo eloquente Isolati per bora. Vento oltre i 120 orari, si legge nelle pagine interne. Danni, incidenti, alberi abbattuti e residenti isolati. In via Sottomonte un tronco è finito sui cavi dell'elettricità. Strada chiusa. Superlavoro dunque per vigili del fuoco e polizia locale. L'altra foto in prima pagina sul Piccolo riguarda il Porto Vecchio e la gara per realizzare il viale monumentale. Il progetto da 19 milioni andrà in gara entro fine giugno, si legge nella pagina d'apertura delle cronache di Trieste, e la delibera arriverà in giunta lunedì prossimo. Il Messaggero Veneto di Udine titola sui dati di Confcommercio: migliaia di negozi chiusi, resistono bar e ristoranti, le maggiori difficoltà nei centri storici. Fotonotizia dedicata alla cultura, centropagina, nuovo allestimento, Tiepolo risplende in castello, l'inaugurazione domenica. In alto un richiamo alla notizia delle indagini della Procura di Bergamo sull'epidemia di Covid che coinvolgono anche l'udinese Brusaferro. Nel colonnino destro alcune notizie di cronaca: a Fagagna un operaio si ustiona in azienda, è grave, incendio a Gonars nel Parco del Corno, sospetto di dolo. Video hot sui social, studentessa allontanata dal liceo a Udine. In taglio basso, infine, la notizia del lupo avvistato a Cave del Predil e un richiamo al calcio. Difesa da rinforzare, l'udinese ripesca l'olandese Zegelaar. Le pagine della cronaca cittadina si aprono invece sulla politica in vista delle amministrative. Da Soramella al Govetto, da Pittioni a Pizzocaro, ecco tutti i cambi di gruppo consiliare. Il dorso di Udine del Gazzettino titola sulla siccità. Stop alle centrali, priorità ai campi. L'ipotesi di bloccare le derivazioni per produrre energia elettrica sarà valutata già nelle prossime settimane. A centropagina la fotonotizia dedicata al 62° compleanno delle frecce tricolori. E accanto c'è un titolo di cronaca. Sostanza tossica fuoriesce al lavoro, grave un giovane. A fondo pagina, infine, 2 richiami allo sport. Udinese a Bergamo per svoltare e Coach Sacco nello staff dell'Old Wild West di basket. L'edizione di Gorizia e Monfalcone del Piccolo si apre con l'accordo siglato sulla centrale A2A che divide Monfalcone. Per regione e comune si tratta di una svolta. Lega Ambiente e le opposizioni parlano invece di un voltafaccia, criticando il progetto di realizzazione di una nuova centrale. Foto in prima pagina sull'edizione isontina del Piccolo riservata all'area dell'ospedale San Polo di Monfalcone, dove ha debuttato la sosta con disco orario, una sperimentazione partita a rilento, che prevede anche pass giornalieri forniti dal CUP ai pazienti con visite o prestazioni di durata superiore alle 4 ore, su cui è tarato il disco, e pass distribuiti ai dipendenti, diretti o indiretti, che lavorano all'ospedale. I parcheggi sono anche il tema dell'apertura delle cronache di Gorizia del Piccolo, che titola «La rivoluzione della mobilità urbana, le soste blu diventano intelligenti, una app troverà il posteggio libero». Il servizio si baserà sui dati elaborati dai 43 parchimetri digitali installati e sarà disponibile entro l'estate. Anche il dorso di Pordenone del Gazzettino ha il suo primo titolo sulla siccità. A centropagina, invece, la fotonotizia è dedicata al Pordenone Calcio con una vignetta. I neroverdi al Tognon sono sognando il nuovo stadio. Accanto la cronaca, arretata in centro dopo le aggressioni, arresti e denunce, controlli dei carabinieri nei parchi, in stazione, in via Mazzini e al Bronx. Un altro richiamo in alto è per l'ex direttrice delle poste di Sacile, assolta dall'accusa di favoreggiamento. In taglio basso lo sport, il Kions vince il derby di eccellenza e il kickboxer pordenonese Xaja si laurea campione a Bangkok. Sul Messaggero Veneto di Pordenone il titolo è sempre sui dati di Confcommercio, ma cambia la fotonotizia, dedicata a Borgo Meduna che cambia volto. Più verde, meno auto. Notizia questa che apre anche le pagine della cronaca cittadina. Sempre in prima pagina, invece, in alto c'è un richiamo all'Electrolux, nel mirino dei cinesi. Il dossier preoccupa gli Stati Uniti. Alle 7.44 apriamo la pagina degli appuntamenti, partiamo dagli spettacoli, un allestimento imponente, 35 brani, 120 costumi e 30 cambi di scena per svelare in musica le sfumature meno note della vita del più celebre avventuriero del Settecento. Debutta questa sera alle 20.30 a Rossetti di Trieste Casanova Opera Pop, con le musiche originali scritte da Red Canzian, colonna storica dei Pooh. A Canzian abbiamo chiesto di raccontarci come si è lanciato in questa avventura e che differenza c'è tra comporre brani di musica pop e quelli di un'opera teatrale. Sentiamo. A quali delle numerose opere che sono già state dedicate a Casanova lei si è ispirato per la sua? A nessuna, nel senso che ho visto Fellini, ho visto altri film dedicati a Casanova, ma in realtà è nato tutto dopo aver letto il libro di Matteo Strucul, Casanova, la sonata dei cori infranti, che essendo un romanzo storico aveva dentro tutti gli ingredienti per creare una bellissima e avventurosa storia. Lei come si è avvicinato all'opera e che fase segna della sua carriera musicale? Comporre è sempre stata una delle tante attitudini che io ho avuto fin dall'inizio del mio lavoro nella musica. Mi piace molto dedicare la composizione musicale a una storia che già esiste e quindi raccontarla, vestirla con la musica. Casanova è stato il primo grande lavoro tutto mio. L'avvicinamento all'opera o ai musical è una scelta sempre più comune per molti musicisti pop, penso anche a Riccardo Cocciante, per esempio. Come mai, secondo lei, c'è una differenza tra lo scrivere e comporre musica pop e lo scrivere e comporre musica che va poi per fare un'opera? Ma è più figurativa la musica che deve raccontare una storia, no? E poi soprattutto noi, perlomeno io, ma molti musicisti, quando scriviamo la musica non sappiamo che testo ci andrà sopra, perché partiamo dalla musica a comporre una canzone. Qui invece sappiamo esattamente quello che va raccontato, quindi è molto stimolante andare a cercare il registro giusto per raccontare quell'emozione, quella situazione, quel fatto, quell'ambiente. Ed è venuto così bene proprio per questo, perché uno è assolutamente aiutato nella scrittura. C'è una cosa non scontata di quelle che conosciamo tutti che l'ha colpita in particolare della figura di Casanova? Beh, del mio Casanova mi ha colpito il fatto che non è più il libertino impenitente dopo tre canzoni del musical, diventa un uomo fortemente innamorato di una giovane fanciulla veneziana e per lei metterà in gioco tutta la sua vita e per lei diventerà un eroe che salverà Venezia dagli intrighi dell'Austria. Ancora spettacoli, torna la stagione dell'Opera Mignon al ridotto del Teatro Verdi di Trieste con la seconda esecuzione dell'opera Un bullo in maschera, con musiche del compositore triestino Federico Gon su testo del giornalista e musicologo Stefano Valanzuolo. Uno spettacolo ambientato nel mondo adolescenziale del calcio dilettantistico che affronta il tema del bullismo. In scena alle 11 e alle 20 con repliche fino a domenica 12 marzo. Dai serpenti ai ragni, dall'aereo alle malattie, la paura guida l'evoluzione umana e non va affatto bene, ma il teatro può aiutare a sorriderci su. Lo fa Fiabafobia, il nuovo spettacolo di Arianna Porcelli Safonov che arriva a Trieste stasera al Teatro Bobbio alle 20:30. Piccole donne, il musical tratto dal celeberrimo romanzo di Louisa May Alcott, arriva questa sera e domani a Monfalcone in una prima italiana assoluta nella versione originale di Broadway con la regia e le coreografie di Fabrizio Angelini. Il sipario si alzerà alle 20:45, mentre alle 20 al bar del teatro la critica teatrale Sara Del Sal introdurrà lo spettacolo al pubblico. Ritorna sui palchi del circuito ERT la commedia Tre uomini e una cella, tratta dall'omonimo film della regista francese Colin Serrault. La versione italiana, prodotta dai Goriziani Artisti Associati, è diretta da Gabriele Pignotta. Va in scena alle 20:45 al Teatro Candoni di Tolmezzo. Cambiamo argomento, inizia oggi con l'inaugurazione ufficiale alle 11 a Palazzo Morpurgo Valvason l'edizione 2023 della Udine Design Week. Il tema di quest'anno è il concetto di dimensione interspazio, con iniziative e percorsi ragionati che illustreranno come il design sia un fattore di cambiamento e possa creare dei corti circuiti tra ambiti diversi come la scuola, il turismo, le aziende, i negozi, i musei. Sempre oggi alle 16 nella Galleria Melarias Contemporanea aprirà la mostra 8 storie di design dedicata all'architetto Enrico Franzolini. E sempre a Udine, questa mattina, alle 9 nella sede della Camera di Commercio, inizia la prima edizione del forum Open Dialogues for Future, una 2 giorni che vedrà interventi e testimonianze di esperti, accademici e leader d'azienda italiani ed esteri nell'ottica di analizzare le dinamiche geoeconomiche nazionali, europee e mondiali e studiarne gli impatti sulle aziende italiane. L'evento vede la collaborazione del giornalista Federico Rampini, direttore scientifico del progetto, e la partecipazione di relatori come Gianpietro Benedetti, presidente di Danieli, Zeno D'Agostino, presidente dell'autorità portuale di Trieste, e Paola Pisano, già ministra per l'innovazione tecnologica. Di cosa si parla quando si discute di ambiente e quanto una definizione parziale di questo concetto è connessa a una diffusa disattenzione alla crisi ambientale? Sono i temi a cui cercherà di rispondere Marco Magnifico, presidente del Fondo per l'Ambiente Italiano, nella sua lectio magistralis in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico del corso di laurea in discipline storiche e filosofiche dell'Università di Trieste. Alla cerimonia, che inizierà alle 16 nell'edificio D della sede centrale dell'Ateneo, parteciperanno anche il rettore Roberto Di Lenarda, la presidente regionale del FAI Friuli Venezia Giulia Tiziana Sandrinelli e la professoressa Elisabetta Vezzosi, direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici. Per celebrare la Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze della Scienza e la Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, l'Università di Udine ha organizzato per oggi un convegno dal titolo Donne che fanno la scienza. L'evento avrà inizio alle 14:30 nell'auditorium della Biblioteca Scientifica e Tecnologica dell'Ateneo. A tenere la prolusione introduttiva sarà la presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, Marika Branchesi. A seguire, 8 professoresse e ricercatrici dell'Ateneo, una per ogni dipartimento, racconteranno lo sviluppo di alcuni dei loro studi. Lo sport comincia l'avventura degli atleti regionali ad Istanbul nei campionati europei indoor. Simone Biasutti, 23enne triestino in forza alle fiamme gialle, è impegnato nelle qualificazioni del salto triplo poco prima delle 18, domani l'eventuale finale. Le gare si possono seguire in diretta su Rai Sport a partire dalle 16:55. Sci nordico ai mondiali di Planizza, oggi in programma la staffetta femminile di fondo 4x5 km con Cristina Pittin di Cercivento in seconda frazione, partenza alle 12:30. Alcuni altri appuntamenti. Per il ciclo di incontri Cenacoli del Caffè, la conferenza del direttore del Museo del Settecento veneziano Carezzonico, Alberto Krajewicz, con un intervento dal titolo Scene di conversazione veneziana del Settecento, a Trieste alle 17:30 all'Hotel Savoy Excelsior. Anteprima del festival dedica il Centro Culturale Aldo Moro di Cordenons con una lettura scenica di Canoe di Maëlys de Kerangal, alle 20:45 con l'attrice e cantante Nicoletta Oscuro e il musicista Matteo Sgobino. Continuano anche le anteprime del Pordenone Docs Fest. Oggi a Cinema Zero alle 20.45 sarà proiettato The Matchmaker, il film di Benedetta Argentieri che svela il volto di Tuba Gondal, una delle più famigerate jihadiste britanniche. E anche il Festival Letterario Monfalcone Geografie al via il 22 marzo procede col programma delle sue anteprime. Oggi alle 18 all'oratorio Don Tonzar Roberto Kovacs e Anna Maria Sanguinetti raccontano il piccolo mondo perduto della fabbrica Solvay e il suo villaggio. Due adolescenti che suonano nella stessa band e imparano che cosa sono la musica e l'amore è la trama dell'ultimo romanzo di Marco Anzovino, che l'autore presenterà questa sera al Teatro di Prata di Pordenone, appuntamento alle 20.30. Inizia oggi l'edizione 2023 delle serate d'organo organizzate dalla parrocchia di San Quirino di Udine con l'Accademia Organistica Udinese. Protagonista della prima serata è il grande maestro inglese Roger Sayer. L'inizio alle 20.45 nelle due chiese di via Gemona a Udine. Sono le 7.53, si chiude questa prima edizione del giornale radio regionale, redatta e condotta in studio da Daniele Lettige e Andrea Covre. È andata in onda grazie alla collaborazione tecnica di Vassia Krismancic e Riccardo Stoic. In redazione ha collaborato Cristina Polselli. Grazie per la vostra cortese attenzione, buona giornata, buon proseguimento di ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.